casa dentro un'altra. Deforme di chi dorme, un lume di coscienza che non è abbastanza. Non troviamo un equilibrio, perso dentro la mia stanza. L'oscurité mon tour, elle me supporte encore deux pas. Mais le seul crack en état de choc, je perds l'équilibre. Et je chute, cadre jour, je compte les secondes et les minutes. Guardo su, cadendo mi appendo alle mani dei demoni per erigermi a signore di questi infli, ma I've off control. Questo mondo che ho creato e sono condannato a voler ritrovare un fondo. Mi illudo che sia il fondo, sono smesso di scavare nel mio vuoto che è profondo e non lo riesco a mascherare. Chiedo aiuto alla realtà oltre alle porte del risveglio. Le noir rejette une ombre, sento solo il suo bisbiglio. Sa présence m'inquiète, la peur grimpe dans mon corps. Je bats retraite parce que mon corps accuse l'effort. Cherche une cachette dans le noir, je lève mon regard. Una forma è lontananza, je garde encore l'espoir. Tento di raggiungerla ma lei sembra temermi. Tenermi a lievita a distanza mentre arti e nervi sono tesi. Messi in crisi dai miei sogni appesi. Children of this land, dietro i miei passi confusi. My head's confused, thinking of what's next to do. You're ahead of me, but I was ahead of you. Then it's clear to me, it appears to be a déjà vu. Sentendola cantare. Alone and lost, running in the cold.